si è scagliato all'interno della mischia. Io. Ognuno adesso rischia, Yanez e Joe, ci sono da un po'. Usciti allo scoperto, nessuno li ha cagati. Dal pubblico combatti, ma ora rispettati. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Un pubblico zero davanti, nessuno. Che già sai, 1, 2, 3, dai, 2, 3, 90. Dice tra zincomodo, si chiama DJ Sanna. Accompagna questa banda accompagnando questa band, mentre si fa quella cosa che si chiama rap. Pubblico zero è arrivato, il nostro bando si è scagliato. Punto, punto, 2, 1, 2.